Come va stamattina? Sono abbastanza benissimo. Come ti chiami? Non so, Pietro. Sei qui di Storo? No, di Cudino. Da quanto tempo sei qua al centro? Non lo so. Quanto tempo sei qua? Non lo so. Stai bene qua? Sì. Stai bene qua? Benissimo. Benissimo. Che attività fai? Tutte. Tutte? E qual è quella che preferisci di più? Tutte. Tutte? Benissimo.